di Miro e Toby, ai sommergibili di Betasol, agli Adra distruttori, al quinto della Tridentina. Dai gatti siluranti, Raffaello Kobayashi.